Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Ora non posso tener testa al vice direttore, disse K. Ma quando mi sarò liberato delle mie difficoltà personali, sarà di sicuro il primo a sentirlo, e anche molto duramente. Calmato un po' da questi pensieri, K ordinò al commesso, che da un pezzo teneva aperta per lui la porta del corridoio, di riferire al direttore alla prima occasione che era uscito per una commissione. E quasi felice di potersi dedicare per un po' di tempo intero alla sua faccenda, lasciò la banca. Si recò subito dal pittore, che abitava in un sobborgo del tutto opposto a quello in cui si trovavano gli uffici del tribunale. Il quartiere era ancora più povero, le case ancora più scure, le strade piene di sudiciume che si allargava lento sulla neve squagliata. Nella casa in cui abitava il pittore era aperta solo un'imposta del grande portone, ma sotto l'altra, nel muro, era uno squarcio dal quale, proprio nel momento in cui K si avvicinava, sgorgò un liquido schifoso, giallo, fumante, che fece fuggire alcuni ratti nel vicino canale. In fondo alla scala, steso a terra sul ventre, un bambino piangeva, ma lo si sentiva appena per il frastuono proveniente dall'officina di uno stagnaio dall'altra parte dell'androne. La porta dell'officina era aperta. Tre garzoni stavano in semicerchio intorno a un lavoro su cui picchiavano con i martelli. Una grande lastra di lamiera stagnata appesa alla parete gettava una luce livida che irrompeva tra due garzoni, rischiarandone visi e grembiuli. K ebbe per tutto questo solo una rapida occhiata. Voleva fare più in fretta possibile, sondare il pittore con qualche parola e tornare subito in banca. Se lì avesse avuto un successo anche minimo, il suo lavoro in banca di quel giorno ne avrebbe ancora tratto vantaggio. Al terzo piano dovette rallentare il passo. Era senza fiato. Le scale, come i piani, erano straordinariamente alte e il pittore doveva abitare in un locale del solaio. Anche l'aria era opprimente. La stretta scala era senza gabbia, chiusa tra muri in cui solo qua e là, quasi in cima, si aprivano piccole finestre. Proprio nel momento in cui K si era fermato un momento, alcune ragazzine uscirono di corsa da un appartamento e salirono ridendo per le scale. K le seguì ad agio. Ne raggiunse una che aveva inciampato ed era rimasta dietro le altre. Le chiese, mentre saliva accanto a lei, «Abita qui un certo pittore Titorelli?» La ragazzina, che aveva appena 13 anni, un po' gobba, gli dette una gomitata e alzò gli occhi a guardarlo di lato. Né la sua giovinezza, né il difetto fisico avevano potuto impedire che fosse già del tutto corrotta. Non sorrise nemmeno. Guardò invece K seria, con uno sguardo dritto e provocante. K fece come se non avesse notato il suo contegno e chiese «Conosci il pittore Titorelli?» Quella annuì e chiese a sua volta «Cosa vuole da lui?» A K parve utile informarsi ancora un poco in fretta su Titorelli. «Voglio farmi fare un ritratto», disse. «Il ritratto?» chiese l'altra. Aprì la bocca in modo esagerato. Dette un colpetto con la mano a K, come se avesse detto una cosa quanto mai goffa e sorprendente. Alzò con tutte e due le mani la gonnella già molto corta e, più svelta che poté, rincorse le altre ragazzine, le cui grida si perdevano già indistinte in alto. Ma al primo giro della scala, K ritrovò tutte le ragazzine. La gobba doveva averle informate dell'intenzione di K e lo aspettavano. Stavano in piedi ai due lati della scala. Si stringevano contro i muri perché K passasse a suo agio tra di loro e con una mano si lisciavano il grembiule. Tutti i loro visi, come i loro disporsi su due file, presentavano una mescolanza di infantile e di abietto. In alto, in testa al gruppo, che ora si richiuse ridendo dietro K, era la gobba, che assunse la guida. Fu grazie a lei che K trovò subito la strada giusta. Voleva infatti continuare a salire dritto, ma quella gli mostrò che per arrivare da Titorelli doveva scegliere una diramazione della scala. La scala che portava da lui era stretta in misura particolare, molto lunga, senza curve, visibile nella sua interezza e in alto chiusa direttamente dalla porta di Titorelli. Questa porta, che a differenza del resto della scala era abbastanza illuminata da un lucernario postole sopra di sbieco, era composta di tavole grezze, su cui il nome di Titorelli era dipinto con vernice rossa, a gran colpi di pennello. K Kappa, con il suo seguito, non era ancora a metà della scala quando in alto, evidentemente per il rumore di tanti passi, la porta si aprì un poco e un uomo, che doveva indossare la sola camicia da notte, apparve nello spiraglio. «Oh!» gridò, quando vide salire la frotta, e scomparve. La gobba batté le mani dalla gioia e le altre ragazzine premettero dietro Kappa per farlo salire più in fretta. Non erano però arrivati ancora in cima quando il pittore spalancò la porta e con un profondo inchino invitò Kappa ad entrare. Scacciò invece le ragazzine, non volle ammetterne nessuna, per quanto pregassero e per quanto cercassero di penetrare, se non con il suo permesso, contro la sua volontà. Solo la gobba riuscì ad infilarsi sotto il suo braccio disteso, ma il pittore la inseguì, l'afferrò per la gonna, la fece girare su se stessa e la depose poi fuori dalla porta insieme con le altre ragazzine, le quali, mentre il pittore aveva lasciato il suo posto, non avevano osato oltrepassare la soglia. Kappa non sapeva che pensare di tutto questo. Sembrava che le cose avvenissero di amichevole intesa. Le ragazzine accanto alla porta allungavano il collo una dietro l'altra. Lanciavano al pittore parole in tono scherzoso, che Kappa non capiva. E anche il pittore rideva, mentre la gobba tra le sue mani quasi volava. Poi chiuse la porta, si inchinò ancora davanti a Kappa, gli porse la mano e disse, presentandosi, «Pittore di Torelli!» Kappa indicò la porta dietro la quale le ragazzine stavano sussurrando e disse, «Sembra che le vogliano molto bene in questa casa!» «Ah, quelle birbe!» disse il pittore cercando invano di abbottonare al collo la camicia da notte. Era del resto a piedi nudi, indossava soltanto un paio di calzoni di tela, larghi, giallognoli, sostenuti da una cintura, la cui lunga estremità ciondolava libera di qua e di là. «Quelle birbe sono per me una vera piaga», continuò smettendo di occuparsi della camicia da notte, di cui aveva appena strappato l'ultimo bottone. Prese una seggiola e fece sedere Kappa. «Una volta ne dipinsi una. Oggi, tra l'altro, non è nemmeno qui. E da allora le ho tutte addosso. Quando sono qui entrano solo se lo permetto, ma quando sono via ce n'è sempre almeno una. Si sono fatte fare una chiave della mia porta che si imprestano a vicenda. È difficile immaginare il fastidio che procurano. Arrivo a casa, per esempio, con una signora che devo dipingere. Apro la porta con la mia chiave e trovo la gobba lì vicino al tavolinetto che si tinge le labbra di rosso con il pennello, mentre i fratellini, cui deve badare, vanno in giro dappertutto e sporcano ogni angolo della stanza. Oppure, come mi è successo ieri sera, arrivo a casa tardi, ma appunto per questo scusi, la prego, il mio abbigliamento e il disordine della stanza. Arrivo dunque a casa tardi e faccio per andare a letto, quando sento un pizzicotto a una gamba, guardo sotto il letto e tiro fuori una di queste briccone. Non capisco perché mi stiano tanto intorno, dato che non faccio nulla per attirarle, come lei avrà ben notato. Naturalmente ciò mi disturba anche nel lavoro. Se non disponessi gratis di questo studio, me ne sarei andato da un pezzo. A questo punto, dietro la porta, una vocina tenera e ansiosa chiese: Titorelli, possiamo entrare? No, rispose il pittore. Neppure io sola? Neppure, disse il pittore. Andò alla porta e la chiuse a chiave. Intanto Kappa si era guardato in giro per la stanza. Non gli sarebbe mai neppure passato per il capo che quella misera cameretta potesse chiamarsi studio. Più di due lunghi passi per il lungo e per il largo non ci si potevano fare. Pavimento, pareti, soffitto erano tutti in legno. Tra le tavole si vedevano strette fessure. Di fronte a Kappa, contro la parete, stava il letto sovraccarico di panni d'ogni colore. In mezzo alla stanza era un cavalletto con un quadro nascosto da una camicia, le cui maniche penzolavano fino al pavimento. Dietro Kappa era la finestra dalla quale, per la nebbia, non si poteva vedere oltre il tetto della casa vicina coperto di neve. Il giro di chiave nella toppa ricordò a Kappa la sua intenzione di andarsene via presto. Trasse quindi dalla tasca la lettera dell'industriale, la porse al pittore e disse: «Ho saputo di lei da questo signore, un suo conoscente, e sono venuto qui per suo consiglio». Il pittore scorse rapidamente la lettera e la gettò sul letto. Se l'industriale non avesse parlato nel modo più chiaro di Titorelli come di un suo conoscente, di un poveretto che era ridotto alla sua elemosina, adesso si sarebbe potuto davvero credere che Titorelli non conosceva l'industriale, o almeno non si ricordava di lui. Per giunta il pittore chiese: «Vuole comprare quadri o farsi fare il ritratto?» Kappa guardò stupito il pittore. Che c'era dunque nella lettera? K aveva ovviamente supposto che l'industriale nella lettera informasse il pittore che K voleva soltanto avere notizie del suo processo. Era dunque corso lì troppo in fretta e senza riflettere. Ma ora doveva dare una qualunque risposta al pittore e guardando il cavalletto disse: «Sta lavorando a un quadro?» «Sì», disse il pittore e gettò sul letto, dopo la lettera, la camicia appesa al cavalletto. «È un ritratto, un buon lavoro, ma non ancora del tutto finito». Il caso era favorevole a K. Gli offriva addirittura la possibilità di parlare del tribunale, perché il ritratto era chiaramente di un giudice. Dava inoltre nell'occhio la somiglianza con il ritratto nello studio dell'avvocato. Qui si trattava, è vero, di un giudice del tutto diverso, di un uomo grasso, con una gran barba nera e folta che gli copriva le guance fino alle tempie. E poi quello era un quadro a olio, questo vagamente e debolmente delineato a pastello. Ma tutto il resto somigliava, perché anche qui il giudice era in procinto di alzarsi minaccioso dal seggio di cui stringeva i braccioli. «È un giudice», fu sul punto di dire K, ma per il momento si trattenne e si accostò al ritratto come per studiarne i particolari. Non riuscì a spiegarsi chi fosse una grande figura posta in piedi dietro la spalliera del seggio e lo chiese al pittore. «Doveva ancora essere un po' lavorata», rispose il pittore, che prese un pastello da un tavolinetto e ripassò un poco i contorni della figura, senza renderla però con questo più chiara agli occhi di K. «È la giustizia», disse infine il pittore. «Adesso la riconosco», disse K. «Questa è la benda sugli occhi, questa è la bilancia, ma ha ali alle caviglie e sta correndo». «Sì», disse il pittore. «L'ho dovuta dipingere così per commissione. Sarebbero la giustizia e la vittoria insieme». «Non è un'unione indovinata», disse K sorridendo. «La giustizia deve stare ferma, altrimenti la bilancia oscilla e non è possibile una sentenza giusta». «Mi rimetto al mio committente», disse il pittore. «Sicuro?» disse K, che con la sua osservazione non aveva voluto ferire nessuno. «Lei ha dipinto la figura proprio come sta sul seggio». «No», disse il pittore. «Non ho visto né la figura né il seggio, è tutto inventato. Ma mi è stato indicato quello che devo dipingere». «Come?» chiese K, quasi non capisse bene il pittore. «Non è forse un giudice che siede sul suo scranno?» «Sì», disse il pittore. «Ma non è un giudice di alto grado e non si è mai seduto su un seggio simile». «E ciò nonostante si fa dipingere in un atteggiamento così solenne. Sta lì seduto come un presidente di tribunale». «Eh sì, sono vanitosi quei signori», disse il pittore. «Ma hanno un permesso dall'alto per farsi dipingere a quel modo. Ognuno è esattamente prescritto come può farsi dipingere. Purtroppo, però, in questo quadro è impossibile giudicare i particolari della veste e del seggio. Il pastello non è adatto per questo tipo di rappresentazione». «Sì», disse K. «È strano che sia dipinto a pastello». «È stato il giudice a volere così», disse il pittore. «È destinato a una signora». La vista del quadro parve fargli venire voglia di lavorare. Si rimboccò le maniche della camicia, prese alcuni pastelli e K vide come sotto le tremule punte delle matite si formasse intorno alla testa del giudice un'ombra rossastra che svaniva irradiandosi verso l'orlo del quadro. Thank you. a poco questo gioco d'ombra circondò la testa come un ornamento o un'alta decorazione. Ma intorno alla figura della giustizia tutto rimaneva chiaro, eccetto un'impercettibile sfumatura. E in quel chiarore la figura sembrava assumere un rilievo particolare. Ricordava ormai poco la dea della giustizia, ma poco anche quella della vittoria. Adesso sembrava piuttosto la dea della caccia in persona. Il lavoro del pittore attirava K più di quanto non volesse, ma alla fine si rimproverò di trovarsi lì da tanto tempo e di non avere fatto ancora nulla per la sua causa. «Come si chiama questo giudice?» chiese a un tratto. «Non posso dirlo», rispose il pittore, che curvo sopra il quadro trascurava manifestamente l'ospite accolto prima, invece con tanto riguardo. K considerò questo un capriccio e si indispettì, perché così perdeva tempo. «Lei è un confidente del tribunale, no?» chiese. Il pittore depose subito i pastelli, si drizzò, si fregò le mani e guardò K sorridendo. «Dunque fuori subito la verità», disse. «Lei vuol sapere qualcosa del tribunale, come del resto dice anche la sua lettera di raccomandazione, e ha cominciato a parlare dei miei quadri per conquistarmi. Ma non me la prendo, lei non poteva sapere che con me era fuori posto». «Via, via», fece deciso quando K stava per obiettare qualche cosa, e continuò. «D'altra parte, con il suo rilievo ha perfettamente ragione. Sono un confidente del tribunale». Fece una pausa, come se volesse lasciare a K il tempo di accettare questo fatto. Fuori della porta, adesso, si sentirono di nuovo le ragazzine. È probabile che facessero ressa intorno al buco della serratura. Forse si poteva guardare nella stanza anche attraverso le fessure. K non cercò di scusarsi in qualche modo, perché non voleva distrarre il pittore. Ma non voleva neppure che il pittore si desse troppa importanza, diventando così in certo qual modo inavvicinabile. Perciò chiese: «È un posto riconosciuto ufficialmente?» «No», tagliò corto il pittore, come se dopo di questo non potesse più continuare. Ma K non voleva farlo ammutolire e disse: «Beh, spesso questi posti non riconosciuti sono più influenti di quelli conosciuti». «È proprio il caso mio», disse il pittore, annuendo con la fronte aggrottata. «Ieri parlavo con l'industriale del suo caso. Lui mi chiese se volevo aiutarla. Io risposi: ma sì, passi pure da me. E ora sono contento di vederla qui tanto presto. La causa sembra premerle molto, e di questo naturalmente non mi meraviglio. Non vuole togliersi intanto il soprabito?» Sebbene K avesse intenzione di trattenersi solo pochissimo, l'invito del pittore gli fu molto gradito. L'aria nella stanza era a poco diventata opprimente. Spesso aveva guardato con stupore una stufetta in ferro, certo non accesa, in un angolo. La pesantezza dell'aria nella stanza era inspiegabile. Mentre si toglieva il cappotto e si sbottonava anche la giacca, il pittore disse scusandosi: «Ho bisogno di caldo. Qui si sta molto bene, no? La stanza da questo punto di vista è in un'ottima posizione». K non disse nulla, ma non era il caldo a dargli fastidio, quanto piuttosto l'aria pesante, che quasi gli impediva il respiro. La stanza non aveva certo preso aria da un pezzo. Questo disagio si fece per K ancora più grave quando il pittore lo invitò a sedere sul letto, mentre lui sedeva sull'unica seggiola della camera, davanti al cavalletto. Il pittore non dovette inoltre capire la ragione per cui K rimaneva soltanto sull'orlo del letto. Lo invitò a mettersi comodo e, visto che K esitava, andò a lui stesso e lo spinse ben dentro il piumino e i cuscini. Poi tornò alla sua seggiola e pose finalmente la prima domanda concreta che fece dimenticare a K tutto il resto. «Lei è innocente?» domandò. «Sì», disse K. Thank you. Roberto Pedicini ha letto Il processo di Franz Kafka, riduzione di Grazia Basile, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.